con chi sei, allora io dico basta, io scrivo basta, non è un pensiero, non è un pensiero. Ma lei non capiva che il mio cuore stava male, perché dentro i suoi occhi